Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ragazzacci, buongiorno, buongiorno a tutti. Eriksen, ancora Krondevi, cross per Bentner, il colpo di testa, il pareggio, 45 minuti e 3 secondi, Niklas Bentner. Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. Ecco il traversone per Bentner, che ci arriva ed è il 2-1, ancora Bentner, ancora di testa, ancora si balza la rete. Uno al mondo potrà fermare questo ma che va. Ed è il vantaggio dell'Armenia, 4 minuti 50 secondi, peggio di così non avremmo potuto cominciare. No, sembra la continuazione della partita precedente. In quanto credo, non credo nelle divise, né tantomeno negli abiti sacri. Angolo, Barchetti anticipato, gol. Segnala al centro del campo l'assistente di Oliver. Nuovo vantaggio dell'Armenia, 25esimo. Un'incertezza ancora difensiva, forse Mkhitaryan. Subito si alza, sì, Eric Mkhitaryan. Perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo, perché son vivo e finché son vivo. Non esce Buffon, prova a colpire Khedira, il palo. E poi il pallone termina in gol, la Germania in vantaggio. Il gol è di Hummels. Segna con Mats Hummels. Ottavo minuto, 1-0 Germania. Colpo di testa, rete. Pareggia la Nigeria. Pareggia la Nigeria e mi pare abbia pareggiato con il numero 13, ve lo confermiamo, dice. L'apertura per Benjamin, il cross di quest'ultimo, rete, ha segnato a Meobi e la formazione nigeriana si porta in vantaggio. Chiudono gli azzurri, c'è il tiro e poi la rete da parte di Pedro. E la Spagna si porta in vantaggio. Spagna 1, Italia 0. Per venire fuori a vedere le stelle. Parte lo spiovente. Rete. Incredibile. Ha pareggiato con Chanot in Lussemburgo. Al 40esimo. Incredibile. Niente, nessuno al mondo potrà fermare. Ciao a tutti. Ma chi l'ha montata questa? Ciao Giovanni Capuano. Quel genio di Piantanina. Tafazzi. Il genio di Piantanida si è svegliato male stamattina. Ma chi? Piantanida. Ma va, si è svegliato benissimo, meravigliosa questa roba qua. Allora, 7 partite, 9 mesi senza vincere, l'Italia naturalmente, 9 gol subiti, quelli che avete sentito tutti da nomi improponibili, 2 anni senza vincere un amichevole. Bene bene, direbbe Stramaccioni da ieri, nuovo allenatore dell'Udinese. Non c'è ovviamente stato niente di positivo nella partita di ieri sera contro i semi-pro del Lussemburgo, numero 112 del diabolico ranking FIFA, mai oltre il 106. Lussemburgo noto per qualche giocatore, diversi corridori bravi, non certo per i calciatori. Non mi sembra il caso di enfatizzare questo 1-1 in amichevole, anche perché la legge dei grandi numeri è ampiamente soddisfatta. Sono cavoli dell'Inghilterra sabato prossimo. La verità è che è quella che ha detto Chiellini, dai, non stiamo lì. 800 24 00 24, numero verde. Chiellini, che cosa ha detto? Diciamo che l'amichevole nella storia dell'Italia non siamo mai stati molto, molto bravi, soprattutto quelle prima delle competizioni. Io credo che la cosa interessante, ma comunque il dato di fatto, è che finché è valso per la qualificazione abbiamo vinto. Dal momento che ci siamo qualificati, no, in questi anni abbiamo sempre fatto poco bene quando non c'era di mezzo un obiettivo valido. E adesso speriamo proprio che, visto che da 10 giorni si inizia con i 3 punti, si inizia con un obiettivo importante che è il passaggio del turno, la squadra torni a vincere. Amichevoli, non sono tempo per noi, lo sappiamo bene. Dunque, oggi è il giorno in cui usciamo dopo una partita, dopo due partite al massimo, magari la terza mondiale non la giochiamo nemmeno perché ne abbiamo prese talmente tante nelle prime due che non ce la fanno giocare. Oggi è quel giorno lì, 8-0-0-24-0-0-24. Il signor Capuano, che ovviamente lo sapete, vi viene in compagnia la domenica dalle 5 alle 7, raddoppierà per i mondiali, ve lo dico, ve l'ho detto nei giorni scorsi, ve lo ripeto. Da sabato, cos'è? Ho perso i conti, Giovanni. Dalle 5 alle 6, da sabato prossimo, dalle non questo che 6, viene, quello dopo. Numero, quello... Che numero è? Il sarà 14. Il numero 14. Sarà il numero 14. Perché vivremo insieme la lunghissima vigilia di Italia-Inghilterra. Ormai vivo sul fuso orario del Brasile. Già tempo del traffico? Vabbè, allora sentiamo il traffico. Poi arriva anche Pardo, che ha cambiato l'ottavo numero di telefono in 3 giorni. Record mondiale, totale, globale, ogni epoca. Vediamo su quale telefono lo agganciamo. Probabilmente faremo una via satellite passando dalla Luna. Speriamo. 80024 0024 strade. Tutti convocati. Here is a little song I wrote. I wanna sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, so be happy. Non sono per nulla deluso, perché se tu lavori come abbiamo lavorato noi sai benissimo che puoi pagare dal punto di vista della brillantezza, quindi non ho dubbi. Prandelli, al di là del risultato, è un collaudo fallito per quello che si è visto? No, assolutamente no, perché a tratti abbiamo cercato le situazioni che avevamo provato. È chiaro che dobbiamo ovviamente migliorare sulle chiusure preventive, perché avendo più giocatori in mezzo al campo sugli esterni possiamo soffrire, ma ripeto, questa era una prova che dovevamo fare, perché abbiamo ovviamente poco partite, sappiamo di non essere brillanti, abbiamo lavorato fino a ieri, ma partiamo con la consapevolezza che possiamo fare un grande mondiale. Ha avuto 2 palle gol anche nel primo tempo Mario, abbiamo creato anche nel primo tempo, chiaro che con Cassano puoi avere quella qualità vicino all'area di rigore, abbiamo avuto 2 occasioni, potevamo ovviamente raddoppiare, poi abbiamo ovviamente sbagliato completamente sul calcio d'angolo, la marcatura mi ha preso. Allora io oggi ho deciso che per me oggi è il giorno dell'ottimismo più sfrenato. Io adesso dico, faccio il mio pronostico, scrivetelo pure, l'Italia arriva almeno in semifinale ai mondiali. Quindi vuol dire che fa fuori il Brasile o la Spagna? Fa fuori, la Spagna si va fuori da sola, sarà grande flop di questo mondiale. No, però meno male che ha parlato Cesarone, ha ragione lui questa volta, facile oggi fare i titoli, abbiamo certo. Pareggiato con Lussemburgo, tu cos'è che hai detto? 112esimo posto nel ranking FIFA. Sì. Invece no, ieri sera è stata una bella Italia. Poi ha preso quel gollettino di testa alla fine. Abbiamo deciso che ottimisti. È il giorno dell'ottimismo più sfrenato. 80024 0024, pronta agli assalti dei pessimisti, naturalmente. Ciccio Graziani, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Sì. Ah, c'è anche Pardo che cambia, che in Brasile cambia più stanze dei Rolling Stones in tournée, più locations dei Rolling Stones in tournée. Ma non sei veramente cool se non le distruggi le stanze, no? Certo. Hai spaccato tutto? Rock maledetto, sì, ho attaccato tutto a colpi di chitarra. Grande. Lo c'è stato dall'oceano, sì. Pierluigi Pardo è una rockstar assoluta. Ciccio Graziani, se ti dico Deportivo Italiano, tu che cosa mi rispondi? Ti dico che non c'era niente di positivo in quello che mi dici. Vero, eh? C'era da migliorarsi. Deportivo Italiano 1982, ultimo amichevole, ultimo scrimmage, come dicono quelli bravi, premondiale, Italia batte Deportivo Italiano, che cos'era, la selezione dei camerieri? Non mi ricordo più. Era una selezione di buoni giocatori, ma niente di più, e quella fu la partita dove poi il nostro grande Enzo prese la decisione di lasciare fuori me e Maldera e far giocare Paolino e Cabrini. E quindi abbiamo vinto il mondiale grazie al Deportivo Italiano. 1-0, gol di chi? Lo sai che non me lo ricordo, forse il mio? Forse tuo, mi sembra di sì. Mi sembra di ricordare che marcatore Ciccio Graziani. Mi sembra il mio, sì. Sì, mi sembra anche a me. Pierluigi, che succede in Brasile? Ma in Brasile succede la solita roba, cioè uno si mette a raccontare ogni giorno i servizi, le manifestazioni piccole che vengono, i problemi, non sente più. Insomma, no, calcisticamente? Ah, calcisticamente succede che invece l'amichevole contro Panama, a differenza di quella nostra contro Lussemburgo, comunque ha contribuito a dare entusiasmo, però insomma magari i brasiliani avevano bisogno di entusiasmo, noi abbiamo bisogno di polemiche, insomma io... Ti dico la verità, ieri la mattina non l'ho vista perché ero imbottigliato nel traffico di Rio, una cosa strana, che non succede mai. E ho letto i commenti, ho letto i giornali, mi sembra che siamo imballati, insomma. Poi certo, questo fatto che non vincano più è abbastanza inquietante, però non lo so, io penso che il mondiale sia un'altra storia, per cui non penso che la partita di ieri debba preoccuparsi più di tanto. Sì, cioè è vero, il mondiale è un'altra storia. No, il mondiale sarà un'altra storia. Quindi, però di bello c'è soltanto che prima della partenza per l'Argentina pareggiamo malissimo contro la Jugoslavia e poi andò a finire che facemmo un campionato mondiale bellissimo partendo la finale del 6° posto. Partendo per la Spagna abbiamo pareggiato a Ginevra con la Svizzera, dovevamo perdere e poi sapete com'è andato. Quindi l'unica cosa di bello è questo. Quello che rammarica un po' è che questa è una squadra che ieri non ha entusiasmato. Allora c'è da pensare che ci sono dei carichi di lavoro importanti dal punto di vista fisico, quindi non c'è la brillantezza, ma ieri non c'era neanche la qualità contro quel Lussemburgo. Poi non si possono più fare. Secondo me c'è più tempo di esperimenti. Io per esempio ieri sera mi sono stupito perché Prandelli non abbia fatto giocare Balotelli con Immobile. Proviamola questa coppia d'attacco davanti, vedere se ci regalano qualche bella soddisfazione. Sì. Anche Verratti, Pirlo, ma che senso ha? Ma gioca Pirlo, c'è Pirlo, De Rossi, ma Marchisio, hai Cerci, hai Immobile, hai Balotelli, perché non provi a far giocare questi? Guarda Ciccio, io sono andato a riprendere un'intervista di Prandelli un mese fa, meno di un mese fa, alla Gazzetta, e lui diceva: noi lavoriamo su 2-3 moduli, il 4-3-1-2, il 4-5-1 e il 3-5-2, più difficile il 4-3-3, non c'era nemmeno traccia di quel 4-1-4-1 che è stato provato ieri. Io credo che sia questo l'unico, secondo me, aspetto inquietante dell'amichevole e un po' della situazione della nazionale, arrivati a 10 giorni dal mondiale. Poi secondo me ieri Verratti e Pirlo insieme hanno anche giocato bene. Insomma, l'Italia ha creato anche tante occasioni. Ma non produce niente. Ma noi abbiamo il capocannoniere della nostra Serie A. Ma perché non farlo giocare subito? Ma deve essere lui il titolare. Poi provaci Balotelli insieme a lui. Ma non è più tempo di esperimenti. Poi attenzione, in nazionale non ci inventiamo che dobbiamo fare gli allenatori, perché in nazionale si seleziona, è diverso. Devi prendere i migliori e metterli assieme. Non c'è bisogno di fare il 4-3-3, 3-5-2, 5-5-10, devi prendere i migliori e devi assemblarli e giocare bene insieme. Non c'è bisogno di fare degli esperimenti, non c'è bisogno di inventarsi nulla. Sì, io la penso come te, bisogna giocare nel modo più semplice possibile, chiamando tutti i migliori, chi se ne frega se sono giovani o vecchi, questo non mi importa. Anche perché Carlo, non ce li hai sotto mano, non sei una squadra di club. Il nazionale è diverso, non alleni più. Prandelli non allena, Prandelli seleziona e li mette insieme e gli dà gli stimoli giusti. Io ieri sera mi aspettavo di vedere sinceramente Balotelli con Immobile, per vedere un po' questi due ragazzi cosa combinano assieme. Ma guarda, io credo che lui abbia in mente questo modulo per aprire il mondiale, cioè l'ha scritto anche Sconcerto oggi sul Corriere della Sera ed è una riflessione interessante. Ha presentato una squadra adatta per giocare contro quelli forti. Cioè, ieri sera potevamo giocare con 8 punte, vincevamo con il Lussemburgo e festa finita. Però io credo che abbia in mente proprio questo modulo, che a me non convince, con Balotelli solo come un tartaro là davanti e con un sacco di centrocampisti anche bravi con i piedi a occupare gli spazi. Quindi può essere che lui abbia davvero in mente questo modulo con una punta sola, Ma se poi tu, Carlo, fai un'altra considerazione: l'unico centrocampista che noi abbiamo, che avevamo ieri d'attacco, è Marchisio. Non c'è nessun altro che sa inserirsi negli spazi come fa lui sia nel club che nella nazionale. Con Balotelli che tu lo metti davanti, Balotelli se no lo mettiamo a fare la prima punta, lo penalizziamo perché lui non ci gioca la prima punta, ci prova ma non ci gioca, lui ha bisogno di qualcuno che stia un pochino più avanti di lui, che ci ronzola intorno, allora possiamo sfruttare al meglio le qualità. Quindi tu non sei della scuola di Berlusconi, Ciccio, su Balotelli? No, questa non è una prima punta Balotelli, non c'è niente da fare, per me non è una prima punta. Ma del resto ieri il gol poi è venuto fuori su un movimento non da prima punta di Balotelli, è andato lui sull'esterno a mettere dentro quel cross che poi Marchisio ha corretto in porta, non è un movimento da prima punta. Tra l'altro io torno sempre a quella famosa intervista 20 giorni fa, lui di Balotelli diceva no, lui deve stare in area di rigore, se si annoia fa niente, ma lui deve stare lì e fare gol. Ha ragione Berlusconi, se tu disegni l'Italia come l'ha disegnata lui ieri sera e che è quella che dovrebbe poi partire nel mondiale, tu dalla prima punta però hai bisogno di un movimento diverso, cioè c'è poco da fare, deve essere una prima punta che apre gli spazi a chi entra, ci sono contraddizioni. Ma poi attenzione, se giocano oggi, se noi giochiamo con Immobile e Balotelli e gli automatismi li crei una volta a favore di uno, una volta a favore dell'altro, qualche volta può succedere che sia un po' più avanti Balotelli con Immobile che viene un po' più indietro e poi può succedere il contrario, ma e poi io sarà che ho giocato una vita sempre a due punte, ma condividere un po' le responsabilità anche davanti diventa anche più facile per i giocatori che ci giocano. Sì, questo è vero. Ciccio, ti ringrazio. Se senti Pardo, salutamelo perché io non riesco più a telefonargli. Ah, oh, ma il vantaggio di Pardo è che in Brasile bravo. A spese nostre, questo non va bene. Sai cosa? Che è andato in, ne parlavamo ieri, è andato in Brasile il primo di giugno, cioè è stato il primo italiano, giocatori compresi, tutti compresi, è stato il primo ad arrivare in Brasile. E tutti ci domandiamo, ma che ci fa in Brasile? Io ho visto 10, un'immagine raccapricciante, l'ho anche twittata, lui in giacca e cravatta in spiaggia. Mi hanno di fare un collegamento. Siamo a pezzi. Mi sono arrivate già due o tre fotografie di Pardo che da quando è arrivato ad oggi è già ingrassato di più. Vi dico nient'altro. Ciao Ciccio, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao. Ci fermiamo per la borsa, poi riproviamo a chiamare Pardo se ci si riesce. E invece chiamiamo voi 800 24 00 24, o meglio voi chiamate noi, eccetera eccetera. A dopo. Guardi, bisogna che l'allenatore, il commissario, gli imponga di fare il centravanti. Tutti convocati. Ci siamo ragazzi. Io voglio ringraziare pubblicamente, non sto scherzando, voglio ringraziare pubblicamente la mia rockstar preferita, che non è Jimi Hendrix, è solo secondo in classifica Jimi Hendrix, ma è Pierluigi Pardo, perché rende meravigliose, felici, indimenticabili le mie giornate. Adesso lo stiamo chiamando. Una dichiarazione d'amore quasi. Sì. Cioè, no, guarda, io lo dichiaro pubblicamente. Adesso, prima era il solito telefono che funziona uguale in Brasile come qua sotto, cioè no, non funziona. Sì, adesso sì. Stiamo usando un ponte radio da Milano chiamando uno 02 stranissimo. Cioè, stiamo telefonando Milano, ragazzi, per parlare in Brasile. Mi arrendo. È un fuori classe. Potenti mezzi Mediaset, qualità. Sì. È come essere a Cologno. Io ti ringrazio e ti difenderò sempre. Anche dichiarerò sempre quelle cose, quei due estratti che da dove sono presi? Piantanida. Tu infatti Piantanida è un genio assoluto, come te, come Jimi Hendrix. Io sono soltanto un umile servitore. No, c'è Capuano che sta scartabellando riga per riga un'intervista di Prandelli del 15 maggio. Che il 15 giugno, io sono avanti ormai. Il 15 maggio, dove aveva fatto questa dichiarazione di intenti, il modulo di ieri sera era il primo non c'era. Non era neanche stato nominato. 4-3-1-2, 4-5-1, 3-5-2, più difficile pensare al 4-3-3. Aveva detto Prandelli, e per questo io sono ottimista. Per una nazionale sperimentale come quella di ieri sera mi sembra che il pareggio con Lussemburgo sia già tanta roba, un grande risultato. Beh, nazionale sperimentale perfetta, no? Una settimana dal mondiale, Pier. No, non è perfetta. La sensazione è che nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno, ci sia stata una involuzione abbastanza forte. e la quantità di partite senza vittoria è veramente inquietante. Però, come dicevo prima, il mondiale poi è un'altra storia. È una competizione di partite dove il pallone pesa, scotta nettamente di più, a noi delle amichevoli comunque non ce ne può fregare di meno, esatto, sempre, questo è vero, storicamente, quindi non mi preoccuperei. Un po' di confusione onestamente si è vista nelle scelte dell'allenatore, questa può essere sicuramente può essere un campanello d'allarme, però insomma io penso che abbiamo una buona squadra, insomma abbiamo una buona squadra, abbiamo una squadra comunque che ha del talento. E siamo certamente, non abbiamo una fisionomia, non partiamo favoriti, arriviamo con un sacco di punti interrogativi e con tanta confusione in testa, però penso anche che poi questa sia una squadra, come hanno ripetuto in questi giorni nelle conferenze stampa Buffon, De Rossi e altri, è una squadra che comunque ha dei talenti, ha dei giocatori di grande esperienza, e quando ci sarà veramente l'adrenalina delle grandi partite io penso che reagiremo, sì. Ne sono abbastanza convinto. Ma anch'io poi ne sono abbastanza convinto. Poi basta vincere 1-0 certe partite, cioè non è che, è chiaro, dai, che devi fare, non è una squadra che deve fare 38 partite, un campionato spettacolare, è una squadra che deve fare una competizione breve, secondo me non parte battuta contro nessuno, il che non vuol dire vincere al mondiale, ma non parte battuta contro nessuno, cioè tu oggi te la giochi con tutti. Sì, sono d'accordo, te la giochi con tutti, è chiaro che poi è come sempre, no? Prima di un mondiale, di un europeo, tu fai schifo, perché fai schifo in queste partite, perché la storia dice questo e ci aggrappiamo come al solito ai corsi e ricorsi. Poi vedi gli altri che, vabbè, Brasile, è chiaro, le avversarie erano quelle che erano, Brasile abbiamo già detto, questo 4-0, l'Argentina ieri un 3-0 passeggiando al Monumental contro, non mi ricordo, Trinidad e Tobago. Vale Lussemburgo, però vedi gli altri che giocano in scioltezza. Ma 2006 è Trinidad. Sì, vabbè, ma comunque è chiaro che 3-1 con l'Inghilterra nel finale a Norimberga. In ogni caso, vedi tutte le altre che vincono in modo agevole, che vincono in modo facile, e dici, ma è possibile che solo noi? Invece è possibile che solo noi. Tra l'altro l'Inghilterra dovrebbe aver perso un giocatore importante, Chamberlain. Ma poi anche qui, ognuno ha i suoi guai, Chamberlain, Cristiano Ronaldo che... sul quale secondo me ci sarà una battaglia furiosa tra la nazionale portoghese e il Real Madrid. Pardo. Sì. Perché sì, sì. Questo non sta bene. Questo non sta bene. C'è Marca da una settimana che scrive che rischia la rottura completa del tendine rotuleo. Sì. Sì. Hanno rievocato addirittura Ronaldo, quello vero. Sì. Il primo Ronaldo. The first one, yes. Il suo infortunio all'Olimpico, per ricordare a tutti che quando il tendine rotuleo si rompe, non si rompe un pochino, ma si rompe, sì, tutto e tronca le carriere. Sì. Sono sul piede di guerra. Poi c'è Ribéry che ancora non si sa se partecipa al mondiale perché ha la schiena a pezzi in modo cronico, e ognuno, l'Inghilterra che perde Chamberlain, ognuno ha i suoi. Anche Diego Costa non sta benissimo. Diego Costa, poi parliamo anche di Diego Costa e di Fabregas, tanto per gradire. Però è così. Gianni Caltanissetta, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senti, io volevo sapere se riusciremo ad avere una squadra italiana con tutti italiani, cioè senza, in bocca parole, Barotelli, ma no, allora Gianni cartellino rosso, ciao. Rosso. Prossima, no, rosso, ma dai, arriva il cartellino rosso. Rosso. Come si fa? Arriva il cartellino giallo. No, giallo. Che giallo, rosso. Già ieri sera c'era una squadra di tutti italiani. Se vogliamo considerare che Thiago Motta, possiamo fare il discorso su Thiago Motta, ma diciamo ieri sera Thiago Motta non ha giocato, e quindi ieri sera era già una squadra di tutti italiani. Dal primo all'ultimo. Siamo le 2000. Dall'1 all'11. Pier, posso chiederti una cosa? Soprattutto ci sono, adesso, al di là dei discorsi diciamo proprio di antirazzismo, di integrazione, di società aperta, multietnica, della velocità che c'è oggi di comunicazione, no? Quindi anche di mescolarsi di persone che arrivano da posti diversi e quindi poi di fare dei figli che magari hanno il papà di una nazione e la mamma di un'altra, che è molto più forte rispetto al passato. Ci sono nazionali, la Francia nel 98 ha vinto il mondiale, la Germania, una forte, la Germania, massima, dai, vabbè, ma sono cose veramente, ma neanche, no, io non ci arriviamo, sono per sensibilità, arriviamoci per convenienza, non per tornare a Diego Costa. Diciamo, io non sono d'accordo con Diego Costa che fa un pezzo di carriera con la maglia del Brasile e poi alla fine sceglie la Spagna. Lì magari potremmo aprire un ragionamento, un discorso, però ci fermiamo qui. Sì. Tutto il resto io, è in più. Io vorrei tutti quelli eleggibili bravi, non mi interessa dove sono nati e non mi interessa quanti anni hanno. Se sono eleggibili e sono bravi, li voglio. E se anche hanno 36 anni come Totti, me li porto. Quindi queste cose e le nazionali dei giovani e che giocano i giovani italiani, tutte queste menate qui sono veramente molto di retroguardia, no? Maurizio, provincia di Milano, vuole anche lei, dica. Innanzitutto complimenti. Grazie. Per il cartellino rosso. Sì. E poi volevo dire, visto che il mondiale si fa in un paese caldo, d'accordo con lei che dice che bisogna portare quelli bravi, però c'è anche le condizioni fisiche da tenere conto. Mi sta bene che è stato lasciato a casa Rossi, però non capisco Barzagli, anche se è bravissimo, per carità, però visto l'andamento di quest'anno, visto dove andiamo a giocare, ho i miei dubbi su Barzagli. Sì. Barzagli però è la cartina tornasole della difesa italiana, è il giocatore più importante di quel pacchetto difensivo che è quello della Juventus. Poi adesso ha la febbre, mi sembra che non abbia altri particolari problemi fisici, o meglio li aveva, ma mi pare siano stati risolti. Pierluigi, speriamo bene. Sì, no, assolutamente, io penso che non Barzagli sia, non me ne vogliono gli altri, ma il giocatore più importante che abbiamo in difesa. Sì. Il giocatore forse meno reclamizzato rispetto ad altri, perché non ha i piedi di Bonucci e non ha, diciamo, gli atteggiamenti da gladiatore di Chiellini, ma alla fine secondo me è il giocatore che commette meno errori, sicuramente della difesa della Juve e della difesa della nazionale. Quindi Barzagli per me è proprio, se facessi, grazie a Dio non lo faccio, il commissario tecnico, sarebbe proprio il giocatore che mi porterei. Adesso non è in grandissime condizioni fisiche, ma insomma c'è tempo. Non ha avuto un trauma serio come quello che ha avuto Rossi, questo insomma l'ha detto, perché sennò si rischia di mescolare dei piani che sono diversi. Ha avuto qualche acciacco e adesso la febbre che gli ha impedito di saltare la partita, che gli ha fatto saltare la partita di ieri, ma insomma non è un giocatore che viene da degli enormi problemi, ma soltanto da qualche noia di tipo muscolare. A proposito di condizione fisica, Pier, tu hai capito cosa va a fare Cassano in Brasile? Perché Prandelli gli ha fatto giocare più o meno mezz'ora sia con l'Irlanda che ieri sera con il Lussemburgo. Ho l'impressione che creda in un Cassano che non ha l'autonomia per 90 minuti e che quindi dovrà essere gioco forza, esatto, centellinato. Ma guarda, Cassano è stato centellinato anche 2 anni fa, quando veniva dal problema al cuore e aveva un'autonomia limitata e giocava sempre i primi 60 minuti, è stato sempre titolare ma è sempre uscito. Io credo che la novità rispetto a 2 anni fa, anche per come è arrivata questa convocazione, è che negli accordi e così diciamo nel sentimento comune si sa che Cassano quest'anno non è un titolare fisso, a differenza di 2 anni fa, perché non è il giocatore che ha costruito la qualificazione, non è il punto di riferimento, è però il giocatore che ti può dare il cambio di passo, e da quello che ho letto anche ieri si è intravista questa sua qualità, anche contro l'Irlanda si è intravista questa sua qualità. Certo, per me Cassano per funzionare ha bisogno di un grande attaccante, cioè di un attaccante regolare che faccia gol, e da questo punto di vista è chiaro che Balotelli, che ha delle caratteristiche immense dal punto di vista fisico, una forza di calcio incredibile, è un giocatore un po' meno tradizionale, no? Mille volte l'abbiamo detto. Lo so, però Pier, il discorso è che se ieri Prandelli ha cercato ovunque il giocatore si mettesse tra le linee, è stato sottolineato anche nel commento tecnico da quelli che stavano vicino alle panchine, continuava a chiedere a chi che sia di andare tra le linee, cioè quella, tra quella del centrocampo e quella di attacco. Nessuno di quelli di ieri sera, salvo Marchisio che è un incursore, può giocare in quel ruolo. In quel ruolo vive Cassano da una vita. Certo. Quindi se ti serve uno che sta lì, allora ce l'hai già, e si chiama Antonio Cassano, numero 10. E poi ti serve un modulo diverso dal 4-1-4-1. I numeri mi fanno impazzire. Come mi fa impazzire che mi scrive sto politicamente corretto fa pena. Politicamente corretto non saprei. Corretto politicamente eviterei l'avverbio. Oppure chi mi scrive: Mauro da Udine, siamo fascisti perché non accettiamo opinioni diverse. per cosa? Per la storia di Balotelli? Immagino di sì. Ah. Opinione, ma ti pare un'opinione? No, ma è un errore, è un errore. Cioè, Balotelli è italiano, punto. Vabbè, dai, punto. Lasciamo stare. Punto. 800 24 00 24. Reggio al telefono altri 10 minuti, Pier. Sì, ma è Cologno. Se l'amico di Milano regge. Strade. C'è il traffico. Come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Tutti convocati. Pomeriggio di ieri, conferenza stampa della nazionale spagnola, si presentano Piqué e ovviamente il tecnico del Bosque. Qualcuno però si è dimenticato un microfono aperto. Per prendere un po' perché. Ha dicho che ya está hecho. Se vaya. 33 minutos. Buenos días. No va a ganar para disgustos el presidente. Ahora. ¿Cómo es? Voy a tener. ¿Cuatro veces? No, en primera sí. Voy a volverlo, pobrecito. Quello che per radio adesso me ne rendo conto sembra solo un gran casino, una gran confusione, nasconde questa conversazione che doveva essere a microfoni spenti tra Del Bosque e Piqué. Filippo Maria Ricci, buongiorno. Buongiorno. Che cosa si sono detti invece? Praticamente Piqué ha rivelato a Del Bosque che se ne andrà Fabregas per 33 milioni. Non dice la squadra, però dice il prezzo. Ha detto che sta hecho. Ha detto che sta hecho. Che è fatta. È fatta, è fatta. La squadra è il Chelsea, sì. Anche se non è ancora. E li hanno un po', come si può dire, fregati, nel senso che era una chiacchierata davanti al microfono. Il microfono doveva essere spento e invece era acceso. E quindi è stata registrata, è stata passata alla televisione nazionale e da lì così. E gli ha detto difendi un po' Cesc. Piqué ha chiesto Del Bosque, però difendili un po' e poi da lì sei in scatola. No, quello è perché Del Bosque, che è uno simpatico, sì. Dice, presente, parla dei dirigenti del Barça, dice lì, cioè ci mancava solo questa, dice adesso voglio vedere quanti gliene dite voi stessi a loro, perché lui sapeva che Piqué non vuole, sì, che Fabregas, suo grande amico, vada via. Infatti, non so se poco prima o poco dopo, poi Piqué spara a zero contro il Barça, cioè spara a zero, dice nel Barça non dice Piqué, sì, Fabregas non viene considerato. Quindi lui dice era Del Bosque, che è abbastanza cercale, però dice con tutto quello che è già successo, mo ci mancava pure questa. Ma meraviglioso, Pardo, meraviglioso questo, meraviglioso, anche se devo dire che grande storia dei protagonisti è clamorosa, nel senso che insomma diciamo sì, che non ci poteva può essere che no, ci sia il microfono aperto. Sì. Capito, cioè non è che sono due ragazzini alla prima conferenza stampa della loro vita, lo sai che tutto può essere registrato e usato contro di te, quindi cioè sono già seduti davanti a un microfono. Sì, tra l'altro Piqué lì che si copre la mano con la bocca, la bocca con la mano, scusa, per non farsi leggere il labiale. Sì, fa un po' ridere, fa un po' sorridere. Sì, anche perché qualche occasione di parlare. Perché vuol dire, la conversazione è assolutamente aperta, anche il modo di parlare di Del Bosque, sì, il linguaggio che usa è molto colloquiale, molto da appunto non direbbe così, da chiacchierata, parlerebbe, esatto, è vera chiacchierata. Senti, ma c'è chi dice una charla. Esatto, una charla. Pierluigi, c'è chi dice vabbè, non va, è una cialda. Il Chelsea sta facendo un mercato straordinario che si basa su quei 60 del tuo amico David Luiz e grazie a quelli va a prendere Diego Costa per 42, che Giovanni Capuano continua a insistere son pochi soldi, e adesso si piglia Fabregas per 33. Sicuramente è la conferma che poi nel mercato devi soprattutto saper vendere bene, cioè tante volte ci si concentra sulla qualità degli acquisti, ma la qualità tecnica dal punto di vista del mercato delle cessioni, cioè quanti soldi ti danno per i giocatori che vendi, è fondamentale. David Luiz è un colpo eccezionale, insomma, cioè, c'è poco da discutere, è un colpaccio. Anche perché plusvalenza di 20, di plusvalenza 40, di oltre 30, di oltre 30. Facendo così due calcoli fatti velocemente. anche pagare Fabregas 33 è un colpaccio, cioè gli Arramendi sono pagati 38, Sì, sì, ma mi sembra che siano cifre entrambe, sia Fabregas che Diego Costa, abbastanza basse. Se e poi Filippo sicuramente lo conferma, oggi su Marca, ad esempio, in prima pagina vengono sparati i 90 milioni come base d'asta, base di partenza per Per Suarez. Real Madrid lo prendono un po' per il naso, via. Su Diego Costa ci può essere il dubbio che insomma ha fatto una sola grande stagione, no? Cioè, per essere, poteva essere ceduto veramente quasi a parametro. L'Atletico Madrid sembrava potersene liberare, quindi ci può essere questo dubbio, anche se devo dire che le cose che ha fatto quest'anno mi sembra che parlino abbastanza per lui. Però 42 milioni insomma, è una valutazione che ci sta. Fabregas a 33 ovviamente è un bel colpo, è un grande acquisto, un bel colpo, Sì, però Fabregas, Filippo, ha giocato in due stagioni, perché, due stagioni in fase canale, un grande equivoco, potremmo metterlo maiuscolo, sia grande che equivoco, cioè gli sfasciano i Cabasisi a Guardiola e a Villanova, Messi e Piqué dice devi tornare, noi dobbiamo giocare insieme, tutti lo vogliono, benissimo, torna e non sanno che giocatore prendono. Se lì c'è il grande equivoco, loro pensavano, quando era tagliata la Masia era un altro giocatore, lui è tornato che all'Asia faceva un altro ruolo e in quel Barça non poteva fare, e da lì in poi è stato un casino, cioè il giocatore dell'Arsenal non è mai stato quello del Barcellona. No, anche perché nel Barcellona quel ruolo non esiste. Semplicemente quel ruolo non esiste. Per quello lui vuole tornare, in più adesso c'è anche la donna londinese e tutto, quindi vabbè, se ne torna là. Tutto perfetto. Però si sono sbagliati al Barcellona, è stato un errore pagato caro, c'è questo dogma del ruolo così, e alla fine anche quest'anno costa a provare a far sto pentagono. Perché Fabregas girovagava per il campo senza andare. È chiaro. Rimane il discorso che prendere giocatori dall'Inghilterra, vale il caso di questa base d'asta clamorosa per Suarez, fare affari con l'Inghilterra è impossibile, cioè puoi vendere giocatori ma tu guarda Bale l'anno scorso dove l'hanno tirato. È un sistema talmente diverso che tu non, con il quale tu non puoi scendere a patti, non puoi trattare. Abbiamo 20 secondi per chiedere se hanno notizie di Simeone, che gli stanno smontando pezzo dopo l'altro. Abbiamo 45 di secondi. Vabbè, rapidamente no, però Simone è così, lo sapeva, nessuno gli ha mai detto un'altra cosa e adesso ricomincerà e ci riproverà, per questo però si sapeva anche che sarebbe stato impossibile ripetere la stagione che hanno fatto, prossimo anno si va di rimessa a remare e poi qualcosa magari riescono anche a prendere, però per esempio Siqueira per sostituire Filipe Luis per me è una buona cosa. A me piace il non venire meno a questo tipo di politica qualunque cosa succeda, questo fa onore all'Atletico Madrid. Saluto tutta l'allegra compagnia. Gianni Capuano, ciao Carlo. Filippo Mariarici, Pierluigi Pardo, non cambiare mai, ti prego. Ad Maiora, a domani. Ciao. Adesso Bad Corner, poi GR, poi di nuovo qui 800240024. Ancora un'ora per stare insieme. Tutti convocati. Abbiamo un sacco di notizie, di cose da raccontarvi. Mi ha raggiunto anche Marco Bellinazzo dal piano di sopra. Ciao Marco. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Ma come siete messi 10 minuti sul microfono aperto di Piqué? Mi interessano di più le finali di Lega Pro. Ma che mi frega le finali di Lega Pro? Luca, finale di Lega Pro in altra data, ci sono i mondiali. Sembra che siano vagamente più interessanti, con tutto rispetto per la Lega Pro e i partecipanti a questo campionato. Poi devo ricordarmi di leggervi anche una mail invece, visto che si parla di discorsi deliranti nazionali di italiani eccetera eccetera, mi preoccupano di più altre cose rispetto a queste divagazioni deliranti. Intanto vi leggo un sms che ho rubato al programma precedente, cioè Effetto Giorno. Mondiali 90, scandali sanità e metropolitane, P2, P3, P4, G7, l'Aquila, l'Expo, il Mose, la TAV, viva la Repubblica Centroafricana. Poi vi leggo la cronistoria che mi ha inviato un ascoltatore, si chiama Franco Rossini da Cortona. Una storia dell'accesso allo stadio di Perugia dove ieri sera ha giocato la nazionale, con come si comprano i biglietti, come si rispettano i posti, eccetera, eccetera, eccetera. Mischa da Cuneo, un ascoltatore già in linea, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi dica. Buonasera innanzitutto. Buongiorno, sì, buongiorno, buonasera, buonanotte. Dica. Buonasera. Vabbè, ciao, ciao Misca, tutto bene? Pronto? Eccomi, dimmi. Oh, è spaventato, pensavo mi sta mandando no, via. No, voleva, sì. Voleva dire, quel signore di prima, diceva, signore, insomma, che diceva nazionale italiana, vabbè, ce l'ha con Ballotelli. Lui non si è reso conto, sei ignorante, Ballotelli è un figlio adottato. Rispetto ai genitori che adottano persone di colore, prima di dire certe cose, poi voleva dire che comunque i bambini adottati fra 10 anni saranno di più con nazionale italiana. Comunque, sì. Ma io me lo auguro, lasciamo i discorsi di retroguardia a chi se li merita, non sono certo i nostri, quindi non mi sembra neanche il caso di rimarcare certe cose. Invece, prima di Pier Giorgio Armanno, che sono in linea, Marco Beninazzo, io oggi ho letto le dichiarazioni di Cellino sul Cagliari, l'altro giorno abbiamo parlato al volo su richiesta espressa di un ascoltatore. Ebbene, fondo americano, cercate da chi l'ha visto. Io dopo l'accordo di Miami non ho più sentito nessuno e non ho visto i soldi. Ho sempre pensato che Silvestrone rappresentasse solo se stesso. Il sindaco l'ha fatto entrare in comune, i tifosi volevano che lo ricevesse, l'ho ricevuto, e invece soldi non ce ne sono e neppure investitori. Dunque? Dunque, tra l'altro, Silvestrone ha poi reagito a questa agenzia dicendo che in realtà la trattativa continua. Il punto è che fatto quello accordo, l'accordo di Miami, dovevano arrivare 10 milioni in questi giorni, in queste ore, per passare proprio alla fase della firma sui contratti preliminari. Questi soldi non sono arrivati, Silvestrone dice che stanno per arrivare, che il processo telematico per i bonifici è evidentemente più lento del previsto. E quindi regna la confusione su questa trattativa. C'è chi parla di una riapertura del discorso con Giulini, quindi con l'altra cordata. Fatto sta, insomma, che ne vedremo delle belle nei prossimi giorni, e sicuramente tutto questo non fa l'interesse del Cagliari, anche se il Cagliari ha appena ottenuto l'ok per i lavori che dovranno portare la capienza del Santeria a 16.000 posti, quindi perlomeno non dovrà peregrinare in Italia la squadra rosso-blu nel prossimo campionato. Vedremo, insomma, credo che ormai, se ci sono dei bluff, ad ore li scopriremo. Sì, altri club invece, compravendita di club. Voglio sapere qualcosa sulla situazione dell'Inter, innanzitutto, perché è ancora tutt'altro che chiara. C'è un altro club, non è italiano ma è cinese, lo allena un italiano ed è Marcello Lippi, che è stato venduto per una cifra mostruosa. Sì, noi qui stiamo discutendo, non so, del Bari comprato all'asta per poco meno di 5 milioni, di un'ottantina di milioni per il Cagliari, che un fondo americano ricchissimo, preso un totale, non riesce a versare. Nel frattempo il gigante dell'e-commerce cinese Alibaba, che sarebbe Alibaba, insomma, Alibaba non è i 40 ladroni. No, qui ladroni non ce ne sono, perché c'è un patrimonio enorme. Alibaba è addirittura più forte di Amazon, quindi insomma stiamo parlando di un colosso. Ha messo sul piatto 140 milioni di euro, ripeto, 140 milioni di euro per il 50% del Guangzhou, che sarà pure la squadra più popolare cinese, sarà pure, insomma, ai vertici del calcio asiatico, ma sembra una squadra del calcio cinese, era, sì. E nell'insieme vale 280 milioni. Ora, se ricordiamo il prezzo d'acquisto della maggioranza dell'Inter, 250 milioni o poco più, capiamo come la geopolitica e la geoeconomia legata al calcio sia completamente cambiata e stia mutando appunto i contorni del calcio mondiale. Non a caso un giocatore come Diamanti viene strappato dal Guangzhou al Bologna, il Bologna finisce in Serie B. Zanetti, proprio ieri, il patron di Segafredo, si è chiamato fuori dal controllo, dalla volontà di gestire il club, e nel frattempo il Guangzhou, ripeto, vale quasi 300 milioni, Alibaba, insomma. E a proposito dell'Inter, lo chiede anche Franco D'Amanto: ma come mai tu devi girare i debiti alle banche? Inter verso il fallimento? Qui abbiamo una situazione che si dovrebbe definire anche qui nel giro di poche ore. Allora, c'era un patto tra Toire e Moratti, entro per il 70% del club, mettono nel capitale 70 milioni, 75 milioni, gli altri 180 di debiti li saldo io, vado dalle banche, li saldo e così ti libero anche dalle garanzie personali che hai prestato. Quindi Moratti era contentissimo perché a quel punto non avrebbe più rischiato i suoi beni personali. C'è stato qualche ritardo, finalmente Toir pare abbia trovato questi soldi, da quello che mi risulta Goldman Sachs con altri fondi non meglio specificati ha dato questi soldi, sì. Quindi che succederà? I soldi arrivano, si pagano un po' di arretrati perché l'Inter insomma aveva un po' di accumulato un po' di arretrato in questi mesi, vengono pagate le banche italiane, sì. Moratti quindi a questo punto si libera dalle garanzie. Però non è che il debito dell'Inter sparisce. Il debito resta, anzi aumenta. Appunto. È un sorta di gioco delle tre carte finanziario, però non dobbiamo essere molto critici, ma assecondiamo l'ottimismo di Toir, il quale si è appunto rivolto alle dei fondi esteri, perché le banche italiane hanno una cosa, chi ascolta questa radio sa di cosa sto parlando, che si chiama Basilea 3, cioè sono dei parametri che impongono alle banche e quando prestano i soldi, a fronte di questi soldi ci devono essere stringenti garanzie e le stesse banche insomma non possono dare i soldi sulla base di un rischio troppo grosso, sì, della fiducia, certo. Che una squadra che si chiama Inter, che ha prodotto 70-80 milioni di russo, sì, all'anno, a un certo punto comincia a produrre utili, quindi le banche evidentemente italiane non possono farle perché hanno questi criteri. Toir si rivolge all'estero. Che succede però? Che normalmente se vai da un fondo estero, da un fondo di investimento che deve guadagnarci, ti chiedono un interesse più alto, certo, di quello che ti chiedono normalmente una banca. La grande, certo, scommessa di Toir qual è? Che nel giro di 5 anni l'Inter diventi appunto quella cosa che ho detto, cioè una società capace di produrre utili e quindi di non solo di acquistare grandi giocatori, aumentare il proprio valore, ma anche di pagare questa sorta di mutuo con questi interessi, sì, e fra 5 anni in qualche modo essere libera. La grande scommessa, se non vincerà questa scommessa Toir, che succede? La domanda che mi fanno in molti. Ecco, in teoria l'Inter finisce nelle mani di questi fondi, i quali a quel punto dovranno decidere cosa farne. Però, ripeto, è uno scenario apocalittico quello di pensare a un fallimento dell'Inter. Allo stesso tempo però non siamo qui insomma ad accogliere tutte le esternazioni ottimistiche di Toir senza, come dire, sollevare il litino e qualche eccezione. Bisogna fare chiarezza. Mostrarla. Io spero davvero che ora dica Toir chi sono questi fondi, perché mi piacerebbe sapere dietro Goldman Sachs chi, appunto, c'è. Perché la grande incognita è appunto il nome di questi fondi, così come la grande incognita è il nome degli acquirenti del Bari nella serata di Pavaresta. Che succede al Bari? Esattamente, lì siamo in una fase in qualche modo più avanzata, abbiamo un club che è fallito, che è stato comprato all'asta, il cui titolo sportivo quindi potrà sopravvivere. Chiaramente devono ancora essere indicati i soggetti, cioè gli imprenditori che insieme a Pavaresta non solo metteranno questi 5 milioni che servono per la prima fase, ma anche per rilanciare evidentemente la società. Il Bari, voglio dire, sarebbe un affare enorme qualora riuscisse ad andare in Serie A, perché mettendo sul piatto 5 milioni il nuovo proprietario, che sia Pavaresta insieme ad altri, si ritroverebbe, qualora la squadra andasse in automaticamente, ad avere per esempio 25 milioni derivanti dai diritti TV, sì, e quindi avrebbe, diciamo, quintuplicato nel giro di due mesi il proprio investimento. E non so se sia questo, spero che non sia questo, che non sia una scommessa, perché sarebbe un future, un derivato. Tanto poi mi dici qualcosa anche sui diritti TV, ci sono notizie di oggi, però. Guardate quanti siamo, compratevi la Bari, qui tutti noi l'amiamo. Tra l'altro io non so chi curi l'aspetto della comunicazione in questo momento al Bari, però mi sento di dire che è un genio assoluto. Sai cosa è successo stamattina? Lo ignoro, ma te lo racconto io. Allora, c'era una coda interminabile di fronte ai botteghini per comprare i biglietti. Sono stati venduti già 40.000 e praticamente c'è tutto esaurito. Coda interminabile per comprare i biglietti della semifinale con il Latina. E allora che fanno i giocatori del Bari? Che fanno? Defendi e tutti i compagni vanno lì dove ci sono i tifosi in coda e portano acqua e brioche per tutti. Beh, grazie. Dire che comportamento da marketing evoluto questo. Infatti un secondo dopo le foto sui social network e applausi a scena aperta di tutti. Ma c'è stato anche ieri sera alla Zanzara il sindaco di Bari Emiliano, ospite di Cruciani, che ovviamente non poteva non parlare del fenomeno pop del momento, cult assoluto, a Bari. Ah, 20 kg, cioè inizio una dieta di 20 kg. In cui voi mi pesate all'inizio, e siccome per me è una cosa veramente dura, perché chi mi conosce sa che è una di quelle cose che probabilmente avrei evitato di fare ad ogni costo. Quindi io in questo momento non dico quanto peso. No, no, lo dica. Allora a questo punto lo dica. Più di 120 kg. Più di 120, probabilmente da qui, se il Bari mai tocchiamo Ferre dovesse andare in Serie A, magari ne peserà. Mi impegno entro ottobre ad arrivare a 100. No, 105. A 105. Benissimo. A 105 entro quanto? Fino a ottobre. Capito? Pronto alla dieta. Pronto, non lo spogliarello per carità, sindaco, però alla dieta se il Bari va in Serie A. Pier Giorgio, provincia di Alessandria, buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Magari Alibaba mi comprasse il Torino, almeno fa qualche magia. Lo so, bisogna chiedere a Merinazzo che ha un contatto diretto. Per il momento non sono interessati, diciamo, non sono italiani. Interessati al Torino. Dai, club italiani in generale. Sono veramente forti, una potenza. Alibaba sì, ma canisce un effetto neanche ad Alibaba. Dica. Volevo dire, ma perché è una domanda un po', perché giocano i mondiali nei paesi extraeuropei se poi li fanno giocare ad orari incredibili? Io mi ricordo anche USA 94, partite giocate a mezzogiorno, alle pomeriggio, finale compresa, mio caro. Finale compresa, esattamente, cosa che magari un brasiliano ha anche lui piacere di vedersi la partita alle 8 di sera, cioè voglio dire, come noi, una cosa. Ma perché? Perché bisogna rendersi conto che è un fenomeno mediatico mondiale e quindi devono, insomma, assestare gli orari sulla base dei vari fusi, quindi non, questo non sorprende più di tanto. Poi si fa un gran parlare delle condizioni difficili di questo mondiale, verissimo, però no, appunto lei fa bene a ricordare, non dimentichiamo quegli americani con la finale di Pasadena che si giocò a luglio all'una del pomeriggio in quella situazione. Penso si possa fare poco, però Pier Giorgio, questo, this is nothing in confronto a quello che forse non succederà in Qatar. Allora, notizia di oggi, Platini prima dice mi attaccano perché do fastidio, dice al Daily Telegraph l'impressione di essere una persona che dà fastidio, io sono trasparente, ho detto per chi avevo votato il Qatar e mi trovo sospettato di essere corrotto, non bisogna dire cavolate. Secondo lui dietro c'è qualcuno, qualcosa, gente che organizza tutto questo, lo sento. Sono queste le parole di Platini, che però poi agenzia delle 15.02 ha detto sull'assegnazione dei mondiali di calcio 2022 al Qatar: non mi pento proprio di niente, penso che fosse la scelta giusta per la FIFA e per il calcio mondiale, ma se delle vicende di corruzione saranno provate serviranno un nuovo voto e delle sanzioni. Marco Bellinazzo, mondiale in Qatar, io ho l'impressione che alla volendo non lo vedremo. Beh, diciamo che c'è tempo per fare nuove votazioni, per assegnare i campionati del mondo del 2022 a un altro paese. Io credo che dei fenomeni, diciamo, di corruttela, se ci sono stati, se verranno provati, insomma, non potranno che portare a quest'esito. Il problema è provarli. Infatti, il sì, diciamo, esatto, sai, è molto diplomatico, sì. Ma è evidente che c'era. Diciamo, nel momento in cui è stata fatta quell'assegnazione, ricordiamo peraltro l'unico caso di assegnazione contestuale, perché nella stessa sessione in cui fu deciso di assegnare i mondiali al Qatar 2022 furono assegnati anche quelli di 4 anni prima in Russia, sì. Vale a dire i due paesi, le due aree in cui c'era la maggior fame di calcio e soprattutto c'erano sacco i fondi, di liquidi, i fondi sacco maggiori di liquidi, sacco di liquidi. Non a caso abbiamo visto in questi anni, diciamo, l'esplodere sia del fenomeno di squadre della Russia che hanno acquistato, diciamo, giocatori importanti, in particolare brasiliani, insomma, poi non sono riusciti ad arrivare magari in semifinale di Champions, a vincere la Champions come speravano, ma comunque squadre fortissime in Russia non se ne vedevano. Allo stesso modo abbiamo visto questa strana assegnazione nel Qatar, con tutte le polemiche di questi mesi relative appunto anche alle condizioni climatiche, no? All'opportunità di giocarli a gennaio piuttosto che in estate, che già non creavano, come dire, i presupposti per un'edizione serena. Dopodiché la stampa inglese, visto che il Regno Unito si aspettava di poter concorrere a quella edizione, di poter ospitare quei mondiali, si è scatenata in questi mesi, evidentemente hanno raccolto già le prove. C'è peraltro una commissione d'inchiesta nominata dalla FIFA, della quale io mi fido poco, per la verità. Ma chiaro, è come dire a quelli che hanno preso i soldi, va bene ragazzi, adesso indagate, ecco, e quindi, via le borse della spesa piene di denaro, e facciamo dei selfie. Che mi fa sperare che si faccia chiarezza, che c'è davvero a questo punto un movimento di opinione pubblica mondiale che pretende chiarezza, e c'è forse anche la consapevolezza in chi ha assegnato quei mondiali, che l'ha fatta un po' grossa, insomma, per tanti tanti motivi. Ermanno, provincia di Trento, buongiorno. Sì, intanto grazie per avermi permesso di partecipare a una trasmissione dove si parla e si discute e non si sblaita, sì. E quindi vi seguo sempre con piacere. Due cose, due pareri vostri sul Milan. Uno, non capisco perché non si voglia confermare Tarab, che a mio avviso è l'unico giocatore dai tempi di Donadoni che salta l'uomo mettendo in superiorità numerica. Poi l'altra cosa è questa: io riconosco a Galliani, grandissimo dirigente, di averci portato in questi anni grandi successi e soddisfazioni, però ci sono due carognate che non gli perdonerò mai. La prima è questa qua, il trattamento su Zedov, perché è evidente che è roba di Galliani, e la seconda, la più grave per me, è l'addio di Maldini, che io non ho concepito, non ho mai digerito il fatto di come l'hanno trattato gli Utah nella partita a San Siro, sì. E che lui non abbia preso negli spogliatoi il microfono, in sala stampa, e abbia incenerito quei tifosi, quei pochi tifosi, che però hanno dato un'immagine di vergognosa del Milan, l'ha fatta il giorno dopo solo perché c'è stata un'indignazione generale. Sì, queste qua sono le due carognate che io non gli perdonerò mai. Una pagina, guardi, quella di Maldini è una pagina orrenda della storia recente del Milan, la conosciamo tutti. C'è una pagina di una ineleganza, sto cercando qualche eufemismo, totale, e quindi rimarrà scritta lì, e molti tifosi come lei non perdoneranno quel pessimo pomeriggio. Quanto a Seedorf, mi sembra che sia già detto tutto e siano chiari i rapporti di potere lì in mezzo. Quanto a Tarab, l'unico che salta l'uomo dopo Donadoni, mi sembra tanta roba, perché qualche altro giocatore soprattutto costa quasi 7 milioni di euro, sì. E che colpo, insomma, bravo. Poi spiccava in una squadra di gatti di marmo come era il Milan in quest'anno, spiccava questo fantasista, molto fantasista, che riusciva qualche volta a saltare l'uomo, però non mi sembra il giocatore futuro. Adesso è stato preso Menez, altro giocatore mai esploso, ma soprattutto, caro Marco Bellinazzo, il solito parametrone zero. Questa perché è la... si gioca così al Milan adesso. La politica che da alcuni anni Galliani sta adottando, che in linea di massima nel panorama calcistico mondiale non ha giovato alle squadre, perché i dati ci dicono che è vero che molti affari ormai vengono fatti a parametri zero, ma poi il monte ingaggi generale delle squadre tende a salire, perché ovviamente devi dare più soldi a quel giocatore, nonché al suo procuratore, sì. Ma questa sì, è un'altra storia. Sì. Detto questo, il Milan si è specializzato in questi colpi. Io credo che, sai, Menez, Alex è un bel doppio colpo, soprattutto se saranno contenuti gli ingaggi, potrebbero essere 2 milioni, 2 milioni e mezzo più bonus, quindi sì. Un costo totale all'anno di circa 10 milioni. È chiaro che il Milan deve sfoltire la rosa e deve abbassare il monte ingaggi, che in questo momento è intorno ai 150 milioni, se vuole, come dire, mantenere e conservare l'equilibrio di bilancio che è stato raggiunto in questi anni. Allora, 20 giorni di stop per Oxlade-Chamberlain. Inghilterra, prima avversaria dell'Italia, perde un pezzo grosso, probabilmente verrà sostituito, mi informa Franco Piantanida. Tu stai qui, devi andare? Che fai? Sono qui. Sei qui, perfetto. Allora abbiamo la borsa e poi torniamo a parlare. Io poi voglio parlare di come si entra in uno stadio italiano anche quando gioca l'Italia, ti voglio parlare di riti voodoo, ti voglio parlare di un sacco di cose, eh. Voglio parlare anche con Antonio da Bari, lei stia lì Antonio. Tutti convocati. Allora, voglio farvi sentire una cosa e darvi una notizia importante. Abbiamo scoperto, Marco Bellinazzo dal Sole 24 Ore, il vero motivo per cui Ronaldo rischia di non partecipare ai mondiali. Sono curioso di sapere. Conosci un signore che si chiama Nana Kwaku Bonsan? Credo di no, non averlo in agenda. Ghanese, traduzione il diavolo del mercoledì. Allora, questo signore fa di professione fa lo stregone. e ha detto che lui sa qual è l'infortunio Ronaldo. Ha dichiarato: so bene cosa sia l'infortunio di Cristiano Ronaldo, perché da 4 mesi sto lavorando seriamente per impedirgli di partecipare alla Coppa del Mondo o perlomeno di non giocare contro il Ghana. La settimana scorsa sono andato in giro a cercare 4 cani da utilizzare per dare vita ad uno spirito speciale chiamato, vabbè, non me lo state a chiedere, e li ho trovati. Federazione portoghese proprio ieri è stata costretta ad ammettere che CR7 qualche problemino ce l'ha davvero. Io penso che noi siamo qua per dire un certo numero di fesserie. Però noi non ci crediamo, ma la mettiamo lì, eh? Sì, io credo che appunto il mondo del calcio sia popolato di strane figure a volte. Non ti ricordi che qualche settimana fa, quando Diego Costa si era infortunato, si era parlato di uno stregone o una stregona che curava con la placenta di cavallo? Sì, è una cosa estremamente seria questa. Santona o scienziatona eccetera ha rimesso in piedi diversi giocatori. D'altra parte Diego Costa quella finale l'ha giocata per 6 minuti, ma l'ha giocata. Quella è una professione diversa, questa dello stregone ghanese invece. Anche lui però lo sta mettendo fuori gioco Ronaldo. Sì. Non so quale sia più affidabile. Ti ripeto, non ci crediamo, ma la mettiamo lì. Cosa ne pensi di Insigne in nazionale? Beh, io ovviamente sono stato molto contento. Certo, perché si ragiona secondo logica di partito sulle convocazioni. Assolutamente dai. No. Come dire, confido nello stellone di Insigne, che in Champions per esempio ha giocato delle bellissime partite. Sono quei giocatori che si accendono particolarmente quando c'è una partita, sai, sì, molto molto importante, rilevante, che hanno quel colpo, magari quello, e poi sbagliano tanti gol. E quindi va sfruttata, insomma, non credo sia stata questa la motivazione per cui prendere l'ha convocato. È stata quella. Secondo me la motivazione era prendere un giocatore tattico su cui l'opinione pubblica non gli rompesse troppo le scatole, da mettere lì. Non credo che Insigne, salvo vada tutto, beh, credo molto male, credo che Insigne non giocherà molto in questi mondiali. Speriamo di aver bisogno del giocatore tattico estremo, in quel caso Insigne potrebbe tornare utile. Antonio da Bari, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Dica. Volevo portare in questo calcio un esempio positivo, quello che sta offrendo la città di Bari e soprattutto i giocatori del Bari. Sì. Vedere oggi i giocatori dopo l'allenamento portare cornetti e acqua ai tifosi in fila per prendere il biglietto è qualcosa di bellissimo. Sì, è stata una grande idea, una grande mossa, ma ripeto, io insomma assumerei subito chi in questo momento cura la comunicazione del Bari, perché anche questo ovviamente splendido gesto, non so chi sia venuta questa idea, magari però è Paparesta direttamente, che ne sappiamo, genio assoluto. 58.000 biglietti venduti, eh? 58.000 biglietti venduti, lo so, ma infatti in questo momento Bari è l'apice del calcio italiano, no? C'è un movimento pazzesco. Da dire che è scattata questa molla e nella squadra e nella città di fronte al fallimento, insomma. Beh, ma tu da tifoso del Napoli hai vissuto queste storie, no? Quindi conosci bene questo effetto magico che si può creare intorno alla squadra quando sei morto e poi riesci a risorgere. Napoli cittadella in Serie C con 40-50.000 spettatori, insomma, qualche anno fa, in qualche modo si può paragonare. Io credo che il calcio italiano non possa rinunciare a squadre come il Bari, il Catania, il Bologna, cioè a squadre di città con tanta passione. Evidente che però insomma prima che accadesse questo c'erano 4.000 spettatori a Bari, va detto anche questo, insomma. C'erano 4.000 spettatori a Bari e a Napoli, è bene non dimenticarlo, ma tu te lo ricordi perfettamente, il primo giorno di allenamento nell'era De Laurentiis non c'erano nemmeno le maglie e i palloni, quindi è bene sempre ricordarsi da dove si è partiti, poi ci si lamenta finché si vuole con De Laurentiis, col mercato e queste robe, però è bene ricordarsi da dove si è partiti. È bene ricordarsi anche di quello che sono gli stadi italiani, e poi Marco Vignazzo ci dirà qualcosa di nuovo sul fronte televisivo, perché, allora, ripeto il messaggio di prima che non c'entra niente con questa trasmissione, però è emblematico, Mondiali 90, scandali sanità, metropolitane, P2, P3, P4, L'Aquila, l'Expo, la Mose, il TAV, viva la Repubblica Centroafricana. A proposito di Repubblica Centroafricana, senti come ha vissuto la serata Franco Rossini, che è un nostro ascoltatore, che mi ha mandato una mail. Allora, ho comprato i biglietti di gradinata per la partita di ieri sera a Perugia della Nazionale online tramite Ticket One, dove è previsto, oltre il sovrapprezzo per la prevendita, anche il sovrapprezzo per la scelta del posto e il servizio stampa a casa per poter arrivare allo stadio col biglietto in mano. arrivano allo stadio, prima coda di alcune centinaia di metri, file di 7-8 persone, questo valido per due soli accessi dove erano presenti solo due persone a controllare la corrispondenza, biglietto, documento. Una terza persona controllava gli zainetti e stappava come di consueto le bottigliette dell'acqua buttando via il tappo perché non si può entrare con quelle. Poi, seconda estenuante fila verso gli unici due tornelli di accesso per la gradinata che servivano solo come contatore di persone visto che c'era solo uno steward. Col sovrapprezzo pagato sui biglietti non era previsto però il quasi non trovar posto e le scalette di accesso ai posti sono stati un lusso. Nessuno ha rispettato la numerazione dei posti e rivolto la domanda agli steward, questi hanno allargato le braccia dicendo funziona sempre così cari miei. Litigio, offese tra la folla fino al fischio d'inizio. Morale della favola: se qualcuno avesse voluto prendersi i posti prenotati avrebbe dovuto fare come quattro uomini energumeni russi giunti all'ultimo che nella loro lingua hanno negoziato in modo che stava voltando al violento prima di prendersi i loro posti. Così questo Franco Rossini e i suoi due figli e suo nipote erano lì seduti sulle scalette di accesso ai posti con l'acqua che usciva dalle bottigliette, però hanno visto vendere da persone con tanto di autorizzazione contenitori di plastica pieni di bottiglie di vetro di birra che venivano stappate e consegnate a pagamento naturalmente. Amara conclusione: nel 2014 Marte quasi conquistata, grande fratello ovunque, satelliti che ti controllano dall'alto, anche le emorroidi, ma il nostro modus operandi non cambierà mai. Così si vive una partita della nazionale italiana contro il Lussemburgo, poi si becca il gol dell'1-1 e si va a casa anche incazzati. Beh, dunque TV. Alle 13 sono state aperte le buste dell'asta per i diritti TV della Serie A del triennio 2015-2018. C'è qualche sorpresa, non le sorpresone che ci si attendeva, tipo lo sbarco di Al Jazeera nel mercato televisivo italiano, magari in alleanza con Mediaset. Fatto sta che abbiamo offerte su tutti i pacchetti presentati, ovviamente da Sky per quanto riguarda poi il satellite e Fox, analoghe offerte per quanto riguarda il digitale terrestre per Mediaset, che però avrebbe non offerto nulla per quanto riguarda il pacchetto dei diritti accessori che prevedono per esempio la possibilità di fare quelle bellissime immagini negli spogliatoi con i giocatori felicissimi di farsi riprendere in mutande. C'è stata invece un'offerta a sorpresa di Eurosport sul pacchetto delle 12 squadre meno, diciamo, con meno audience. Nome anche nuovo, Eurosport. Esattamente, a sorpresa. Anche se dentro potrebbe esserci in questo pacchetto anche la Roma o la Fiorentina, dipende poi da come verranno costruiti. Si tratta di 132 partite che valgono comunque 230 milioni. Invece il pacchetto più innovativo, quello per la trasmissione online sui nuovi mezzi, insomma, di visione non televisivi, quindi il pacchetto più innovativo che valeva oltre 100 milioni non ha ricevuto quindi nessuna offerta. Ora non sappiamo esattamente se le offerte sono state al minimo perché in funzione della base d'asta che era per i pacchetti principali di 273 milioni o se ci sono stati rialzi. Fatto sta che tra qualche giorno sapremo chi ha vinto questa gara, il notaio dovrà controllare, insomma bisognerà fare tutta la procedura richiesta, certo. Però ecco, la rivoluzione non c'è stata, il calcio italiano rischia magari di incassare qualcosa in meno rispetto al miliardo che incassava finora. Questo è un dato che mi sembra abbastanza. D'altra parte sarebbe stato paradossale se stiamo a discutere del prodotto, no? Di un prodotto che è sempre meno attraente, cioè il campionato italiano in crisi, eccetera, eccetera, sarebbe stato paradossale se avessero pagato di più. Quindi sì, la vera sfida sarà il prossimo pacchetto che riguarderà i diritti all'estero. Sì. Che in Italia valgono 120 milioni, per esempio la Francia tanto criticata li ha venduti proprio qualche giorno fa al canale sportivo di Al Jazeera per 6 anni per circa 80 milioni di euro all'anno e valevano appena 40 milioni all'anno fino a qualche anno fa. Certo, quindi gli altri in Inghilterra, come tu mi insegni, come abbiamo detto molte volte, questa è la Francia, l'Inghilterra siamo quasi a 900 milioni di euro. E poi mi dici perché vogliono 90 milioni per Suarez, ma perché hanno i soldi? Cioè, se vai a comprare dai ricchi, è chiaro che i ricchi non ti regalano niente. Non puoi trattare con loro. Cioè, proprio per queste ragioni, non puoi comprare un giocatore da un club inglese. Altrimenti dicono: ok, Paris Saint Germain, vuoi David Luiz? 60. 60 per David Luiz è una follia. Ma guarda, vuoi Suarez? 90. È normale. Ti do quest'altro elemento per capire di cosa stiamo parlando. Nell'ultimo anno il Cardiff, Cardiff, l'ultima squadra della Premier, ha incassato dalle TTV nazionali, insomma, e internazionali, 75 milioni di euro. La Juve ne incassa una novantina. Vedi tu. Quindi, insomma... Vedi tu. E poi come fai a fare a competere sul mercato? Vuoi a pari a dire Conte... Vabbè, va andare a mangiare al ristorante da 100 euro con 10 euro. Antò, sono quelli che hai. Cioè, fino a quando il calcio verrà gestito con questi criteri, Agnelli, col Cardiff non puoi competere. Andrea Agnelli qualche giorno fa ha detto che nel prossimo triennio si prevede un incremento dei ricavi della Juve fino a 300 milioni. Il problema è che sono club che ne fanno 400-500. Eh certo, certamente. Allora, tra un attimo, dopo, subito dopo il traffico, parliamo con Dora nella provincia di Macerata, ma soprattutto facciamo salto negli Stati Uniti, dove iniziano le finali NBA, a proposito di club sportivi venduti per un sacco di soldi. Stiamo qui a parlare di bruscolini, no? Rispetto a, ai Clippers, esatto. Strade. Tutti convocati. Dorian, buongiorno, mi dica. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Convocato, sì. Convocatissimo. Ti volevo dire il complimento, faccio complimenti un'altra volta e ti dico l'argomento nazionale. Balotelli a vita. Sì, ma che dubbi ci sono? Ma non mi sembra nemmeno il caso di tornare a discuterne, no? Di questo, perché... Sì, questo è vero, no? Siccome tutti quanti, ma eh? Sì. Per questo ti dico che Balotelli per me in nazionale ha fatto un 8. Quando? E volevo sapere anche il mercato della Juve. Mercato della Juve non è ancora chiarissimo. Non è ancora chiarissimo. Vuole Morata. Secondo me, alla fine, Morata se lo prenderà. Piano B è molto diverso di Didier Drogba. A proposito di nonni del gol, eh? Appunto, no, credo che dipenda poi molto dal mercato in entrata del Real Madrid. Sì. Real Madrid concederà Morata se gli converrà, insomma, con una formula che sì. gli converrà per quanto riguarda il Real Madrid, il che dice Filippo Maria Ricci vuole cambiare i centravanti, quindi anche Benzema dovrebbe essere sul mercato, ma vale un po' lo stesso discorso fatto prima per le trattative con gli inglesi. Con questa gente è molto difficile trattare, se parti dal fatto di essere il calcio italiano, anche se la Juventus. Adesso facciamo un salto in America, Two teams with championship pedigree, two teams that feature some of the real stars of our generation. You gotta love it. That's great team play. This is how basketball should be played. You want to talk about a game for the ages. This is one of the greatest teams in NBA history. You just can't take these moments for granted. The Spurs earn a rematch with the Miami Heat in the NBA Finals. Simone Sandri da New York, ciao. Buon pomeriggio Carlo, da San Antonio, non da New York. Sì, da San Antonio, perché naturalmente è lì che stanotte alle 3 italiane iniziano delle partite per noi difficilissime da seguire, perché la partita NBA dura 3 ore e mezza e si gioca di notte, però è il massimo che c'è nella pallacanestro mondiale. In più quest'anno San Antonio Miami, con San Antonio che ha il fattore campo, e c'è ovviamente Marco Bellinelli. Con Marco Bellinelli, NBA Finals 2014, notte prima degli esami. Non so, quando hai fatto la maturità ti sentivi di aver studiato, sì no? E qui ti senti di aver studiato, sì no? No, sono pronto. Sicuramente questo l'ho sempre sognato, è sempre stato il mio grande desiderio. Ho sempre lottato per arrivare fino alla finale e sicuramente sarà bellissimo. Insomma, per me emozioni tantissime. Già per me è difficile pronunciare la parola NBA Finals, quindi sono veramente carico per dare una mano a questa squadra e cercare comunque di dare il massimo per vincere. Sì, giustamente non sa dirlo davvero, NBA Finals, non gli è uscito benissimo. Simone, è San Antonio, squadra che ha è una dinastia, contro Miami, che una dinastia lo sta diventando. Sì, e che dinastia... incredibile, perché se pensiamo che gli Heat sono arrivati alla quarta finale consecutiva, qualcosa di incredibile, e praticamente nell'era LeBron James non sanno cosa vuol dire non giocare una finale, perché sono sempre arrivati alla finale, per cui è sicuramente una finale tra due squadre che l'hanno meritata tutta, ed è la finale più affascinante che ci si può aspettare, ripensando quello che è successo l'anno scorso, soprattutto in quell'incredibile gara 6 dove San Antonio ha fatto il suicidio sportivo che nella storia del basket ha pochi paragoni, su di 5-26 secondi dalla fine, non passando due rimbalzi offensivi e sbagliando liberi che poi gli sono costati il titolo. Sono delle finali che saranno molto tirate, secondo me si decideranno anche nei particolari e forse anche grazie, molto probabilmente grazie alla produzione della panchina e perché no, magari anche alla produzione di Marco Bellinelli. Sì, i dettagli saranno molto importanti, c'è anche una nuova formula per le finali NBA, cioè una formula proprio logistica per cui si giocano 2-2 e poi si fanno volare le squadre da una parte e dall'altra, soluzione estremamente scomoda e faticosa per i giocatori, però sportivamente corretta. Sportivamente corretta per i giocatori fino a un certo punto, perché comunque col volo privato, soprattutto scomoda per noi, sì, noi certo, giornalisti e noi, però che noi ovviamente faccio, perché soprattutto se c'è una partita come Miami e San Antonio dove non ci sono neanche voli diretti, per cui è veramente scomodo. Però detto questo, però è assolutamente, credo che sia stato un cambio che comunque premia la qualità del basket, perché penso che sia molto giusto l'alternanza di gara 5, 6 e 7. Non credo sia giusto che una squadra che abbia un record che abbia il record migliore debba giocare 3 partite consecutive. Credo che sia una cosa giusta, per cui l'NBA ha fatto secondo me bene. Adesso vediamo cosa succederà. Sì. Marco Bellinazzo, le notizie di sviluppi ai San Diego Clippers, ai Los Angeles Clippers, una volta San Diego Clippers. Al di là della somma incredibile, cioè, poi stiamo a discutere stanno di crescendo. Quanto vale il Bari o di quanto vale l'Inter. Ci sarebbe da fare una puntata a parte per quanto riguarda l'NBA, il valore commerciale, lo sfruttamento del marchio, le politiche collettive certo, centralizzate, insomma, che fanno l'NBA. Io personalmente, diciamo, dal punto di vista sportivo tifavo Oklahoma perché sono innamorato di Kevin Durant, però insomma guarderò registrandola, prendendola magari la mattina, posso suggerire a tutti gli appassionati questo metodo, sì, perché ama Sky. No, ma poi sì, certo. ma poi discutevamo prima dei diritti internet per il calcio italiano, non è una piattaforma che decolla in Italia, ma io ti dicevo molto dipende anche dalle modalità con cui trasmetti queste partite. Ad esempio, se tu paghi i dollari che devi pagare per vedere le partite online dell'NBA, beh, allora vedi, in una qualità perfetta, hai tutte le commodities del caso, ti guardi la partita giorno prima, giorno dopo, senza pubblicità, in tutto il mondo, ti guardi ogni partita, insomma, quello è davvero un altro mondo. Ti spiego e ti spiega perché una franchigia come Los Angeles Clippers vale 1.5 miliardi di dollari. Anche questo te lo spiego. E Simone Sandri lo sa perfettamente, no Simone? Sì, sono d'accordo e avete detto una cosa giustissima. Il concetto, per dire, a parte del merchandising o dello sfruttamento dell'immagine, ma il fatto che per esempio i diritti su internet del calcio italiano non vengano venduti come un pacchetto individuale, vengono praticamente regalati a chi compra, per esempio negli Stati Uniti, chi compra la Serie A in Italia, gli regalano praticamente i diritti online, che è una assurdità totale, perché come siamo arrivati al giorno d'oggi, se tu vendessi, marketizzandolo bene, un pacchetto dei diritti di internet delle partite di calcio, sicuramente avrebbe la sua nicchia di mercato, è quello che fa la Premier. No, certo, non possiamo fare il paragone, i Clippers fanno parte di un'organizzazione che è all'avanguardia e che ha anche secondo me una protezione nei confronti della qualità del prodotto, delle squadre. Per esempio, i Clippers sono stati venduti ovviamente per le parole di Sterling. Però, per esempio, se noi consideriamo che i Dodgers, che è la squadra che tiene ancora il record della franchigia americana più venduta con il più alto guadagno, 2.1 miliardi di dollari, è stata venduta perché il proprietario al 31° giorno non aveva pagato gli stipendi. Non facciamo il paragone con noi, dove le squadre hanno magari 40-50 milioni di euro di mancati pagamenti, comunque vanno avanti senza problemi, in un modo o nell'altro riescono ad andare avanti. Qua ci sono delle regole ferree che fa sì che se tu non paghi un fornitore o un giocatore al 31° giorno, il commissario ha il diritto di portarti via la franchigia. Ma vedi, Simone, poi noi siamo qui a discutere sul Parma perché è stato escluso, ma in fondo erano solo 300.000. Ma cosa volete che siano le regole? Ma 300.000, ma dai, ma mettiamoci una pietra sopra, trattiamo, vediamo di risolvere in un'altra maniera. La differenza non sta nei 300.000, sta nella mentalità. Quindi è inutile stare lì a girare il cinturone. Una cosa, la storia per esempio del Bari è straordinaria, però noi ci dimentichiamo di tutti i fornitori e di tutte le persone e dello Stato italiano che non ha preso miliardi di euro di tasse, oppure i fornitori che non sono stati pagati. E comunque adesso si crea questa storia che è fantastica del Bari che riuscirà magari ad andare in Serie A non pagando i giocatori, ed è una cosa che, se raccontato ovviamente a... agli americani risulta non solo lingua straniera, proprio altro universo. Grazie Simone Sandri. Allora, migliore in campo di oggi tra gli ascoltatori. Mischia da Cuneo, un ascoltatore già in linea, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi dica. Buonasera innanzitutto. Buongiorno, sì, buongiorno, buonasera, buonasera. Dica. Buonasera. Vabbè, ciao. Ciao Mischia, tutto bene? Pronto? Eccomi, dimmi. Oh, è spaventato, stavo andando via. No, ma no, voleva dire, quella signore di prima, diceva signore, insomma, che diceva nazionale seriale, vabbè, ce l'ha con Ballotelli. Lui non si è reso conto, se ignorante, Ballotelli è un figlio adottato. Rispetto ai genitori che adottano persone di colore, prima di dire certe cose, poi voleva dire che comunque i bambini adottati fra 10 anni saranno di più con nazionale italiana. Noi chiudiamo questa puntata, grazie Marco Belinazzo. Grazie, ci vediamo presto, mondiale in corso naturalmente. Franco Pietrini, autore di questo programma, Claudio Schettone in redazione, Roberto Scaltritti in regia. L'ho sentito con le mie orecchie, l'ho visto con le mie orecchie. Ciao a tutti.